Andrea attendeva Emanuela in Piazza di Spagna. La guardò scendere la scalinata con aria di soddisfazione. Sai, le disse appena le fu vicino, ho sempre dimenticato di dirti che ciò che più mi colpì in te quando ti vidi la prima volta fu il tuo modo di camminare. È molto importante in una donna. Alcune mostrano la preoccupazione di farlo bene ed è cosa detestabile. Tu dovevi camminare così anche quando muovevi i primi passi, disse ridendo. Sei armoniosa in tutto. Non ci si volge a vedere il tuo vestito quando passi, ma avendoti accanto ci si avvede che sei squisitamente elegante anche nei particolari, piena di orgoglio dopo quanto detto, no? Fece stringendole il braccio. Sorridendo la rispose un poco. Sei stata dalla spagnola? Sì. E che fa? Ama. Non è poco. E lui? Combatte. Due maniere intense di vivere, no, Nuela? Ascolta, c'è qualcosa di molto importante per noi oggi. Papà ha approvato il nostro matrimonio. Ha aggiunto che se voglio è disposto a passarmi ugualmente un assegno mensile, senza che io lavori al negozio, per aiutarmi a farmi strada nel giornalismo, nelle lettere. Gli ho risposto che rifletterò. Mancano ancora 6 mesi alla laurea, ma bisogna pensare a questo seriamente, Manuela. Non so se vorrò approfittare così di mio padre. È stato inverosimilmente comprensivo e per questo io vorrei essere con lui altrettanto franco. La letteratura oggi non è una carriera, forse lo era ai tempi di Lorenzo il Magnifico. Allora forse sarei stato nominato poeta di corte e avrei avuto un bellissimo appartamento alla Reggia con un gran letto di quelli che oggi si fanno in imitazione, no? Ma chi vive con le lettere soltanto oggi? Meglio mettersi a fare il giocatore di calcio. Rimane l'insegnamento, mi daranno una cattedra a Bitonto, per esempio. Aveva ragione papà quando mi sconsigliava questa strada. I vecchi hanno sempre ragione, hanno con sé l'esperienza, ma vedi, l'esperienza esclude l'imprevisto, lo chiude fuori. E perciò non mi attrae. È una pietanza che non sveglia l'appetito. Ma tutto questo va finché noi siamo soli. Pensato a noi, pensato a tutto. Però, viene un giorno. Vuoi essere la moglie del professore di Bitonto? Mi pare difficile che tu possa esserlo con quel modo che hai di camminare. Sei una donna impegnativa, tu. Perché dici questo, Andrea? Mi addolori. Ma al contrario, sciocca, è proprio per questo che mi piaci. Dunque l'insegnamento, no. Temo che pesare i diamanti sia ancora la cosa migliore. Nessuno poi mi impedirà di scrivere la sera, mentre tu leggi accanto a me. Ma sarà strano un poeta gioielliere, no? L'arte è agli antipodi del commercio. Le parlava e intanto la conduceva di passo svelto tra la folla, come se avesse una meta precisa. Dove stiamo andando, Andrea? Al negozio. I vecchi non lo sanno, è una sorpresa. Adesso? Così? Oh no, no! Aveva deciso che non sarebbe giunta a questo punto prima di aver detto tutto ad Andrea. E ora, così, in mezzo al corso, come poteva? Forse era bene prendere quel momento, ma sul marciapiedi esiguo la gente li urtava, li divideva e poi sapeva che quel cappello non le stava troppo bene e temeva di fare cattiva impressione. Non era neppure ondulata di fresco. Avrebbe voluto portare due fiori alla madre di Andrea. Gli uomini non capiscono queste sfumature. Insomma, era necessario che parlasse prima. Andrea, fece risoluta a tutto. Erano già dinanzi al negozio. Egli le fece cenno di tacere e spiò dalla vetrina. Andrea! Ella insisté. Ora avrebbe parlato. Senti, Andrea, ti devo dire, ho una bambina. Sì, lì, in mezzo al corso. Un momento come un altro, quell'istante doveva pur venire. Ma egli disse, non c'è nessuno, e la spinse a entrare. I loro passi soffocarono sul tappeto marrone. Era un negozio elegante, sobrio. In una piccola vetrina illuminata le gemme rilucevano. Un commesso che sedeva in un angolo s'alzò vedendo Andrea. Il ragazzo lo salutò con la mano e si diresse a una porta dissimulata da una tenda. Là dietro, in una stanzetta calda, sedevano i due vecchi, come Andrea aveva descritto. Lei lavorava e lui leggeva il giornale. Udendo la porta aprirsi, il padre guardò al di sopra degli occhiali e Andrea fece con un sorriso: Ecco, vi ho portato Emanuela. La ragazza aveva pensato tante volte a questo incontro. Voleva portare i fiori per entrare con un atto di simpatia, poi bisognava andare incontro alla vecchia, baciarla. E invece era rimasta stretta ad Andrea, impacciata. Fu egli a spingerla avanti. Essi sorrisero. Erano due vecchi simpatici, grassi e bonari, due genitori all'antica, come i suoi. Presto l'imbarazzo si sciolse e le due donne si baciarono, e anche il padre la baciò. Emanuela non poteva riuscire antipatica, non riusciva mai antipatica a nessuno, inoltre era bella e molto distinta. Tutti hanno piacere che la moglie del proprio figlio sia bella e molto distinta. Decisero che lei avrebbe fatto colazione in casa loro la domenica seguente. Andrea era contento, una contentezza espansiva, spumante, quasi puerile. Domenica, fece Emanuela indecisa. Sì, domenica, confermò Andrea. Domenica. Ogni domenica alle 2 bisognava andare al collegio per vedere Stefania. Forse avrebbe potuto farne a meno, oppure, ecco, vi sarebbe andata in mattinata. Domenica, lei con gioia accettò. Andrea la riaccompagnò al collegio. Era una mite sera di ottobre, dolcissima. Egli la teneva sotto braccio, stretta, teneramente, come mai aveva fatto. D'ordinario era allegro, parlava molto e ora invece taceva. Taceva e la portava come un fiore all'occhiello. La guidava tra la gente che a quell'ora gremiva le strade del centro. Quando attraversavano i crocevia saettanti da automobili, egli la conduceva al marciapiede opposto con decisione. Un uomo, Emanuela considerava, un vero uomo. Si camminava facilmente in quella pace della sera e dell'anima. Emanuela non pensava a nulla. Egli le disse a un tratto: Hai visto come tutto è stato facile? Ella annuiva, chinando la testa, annusando ghiottamente l'aria. Un buon fresco penetrava dalle nari, si propagava nei polmoni aperti. Tutto sarebbe sempre stato facile, ne era sicura. In fondo, aveva fatto di tutto per evitare Andrea. Presa dalla coscienza della sua situazione, non era andata al primo appuntamento, non ci pensava più. Era stato il destino, proprio il destino, a farli incontrare. Il giorno del funerale di Milly. Milly l'avrebbe protetta, avrebbe provveduto a tutto ora che lei da lassù conosceva la verità. Sì, era così. Non poteva essere altrimenti. Mi vuoi bene, vero? Gli chiese. Egli non le rispose, neppure la guardò, ma le strinse il braccio contro il suo. Le si avvicinò di più. Lasciandola, le baciò a lungo la mano, scostando il guanto. Poi le disse, con dolcezza, buonanotte, Nuela, mia Nuela. La seguì con gli occhi mentre lei suonava alla porta del collegio. Diceva il nome allo sportello, lieve con le labbra, gli accennava un bacio. Neppure glielo rese. Seguitò a guardarla finché fu scomparsa. Ella salì le scale leggermente con il fiato sospeso, aprì la porta della sua camera, la richiuse, vi si appoggiò con la schiena. Attorno a lei, ovunque, sommesse, udiva quelle parole: Buonanotte, Nuela, mia Nuela. E a occhi chiusi, sorrise nel vuoto. Beata. Uscì presto di casa la domenica seguente. Arrivò in fretta al collegio di Stefania, così fuori mano, così fuori mano. E pagando il tassì, spiò di qua e di là, quasi temendo di vedere dalla polverosa siepe che fiancheggiava la strada o da un altro tassì che l'avesse seguita sbucare Andrea, che prendendola per il polso le chiedesse che vieni a fare qui. Ma in quella via non passava mai nessuno. Suonò alla porta, chiese della bambina ansiosamente, facendo capire che era venuta quell'ora inconsueta per forza maggiore. Udì la campanella dindinnare nel cortile e poco dopo, invece di Stefania, una suora comparve. Ecco, ella pensò, non fanno scendere le bambine a quest'ora. Monache, sempre monache, pignole, ma io sono venuta a ogni modo. E invece la suora spiegò che Stefania era malata, stava all'infermeria. Volevamo avvertirla da ieri, signora, ma non abbiamo il suo indirizzo. Anzi, sarebbe opportuno che lei. Malata? Niente di grave, vero? Chiese. La scarlattina. La scarlattina! Esclamò impaurita. Una sua sorella era morta a 6 anni di scarlattina. Ripeté perplessa. Dio mio, la scarlattina! Ieri aveva la febbre a 40. Oggi soltanto a 38 e 5. Delirava stanotte, una pena. Si è assopita all'alba. La guido all'infermeria. Traversarono chiostri e cortiletti. Tutto era bianco e pulito. Candidi crisantemi riempivano le aiuole dei giardini rinchiusi. È bello qua dentro, molto bello, pensò Emanuela camminando. Stanno benissimo, stanno meglio che in casa. E intanto giunsero. Era un ramo speciale dell'infermeria, riservato per le malattie infettive, e in una cameretta bianca stava Stefania. Appena vide Emanuela sulla soglia, la bambina esclamò: Mamma! Mai l'aveva accolta così. Aveva una faccina dimessa, una vocetta torbida, velata. Le trecce non si arrampicavano più annodate sugli orecchi, ma pendevano sul petto, morbidamente. Perché non sei venuta prima, mamma? Non sapevo, amore mio, Stefi, non sapevo. E si sentiva invadere da una lacrimosa tenerezza. L'infermiera disse sottovoce che la bambina ricominciava a vaneggiare, aveva lampi di lucidità, poi ricadeva. La febbre era salita di nuovo a 40, come rassegnata la voce della bambina salì dal letto. Lo so che ho il febbrone, sento tutto, capisco tutto. È proprio vero che Simonetta è venuta a tirarmi le trecce, mamma, sai, non è il delirio. La suora ammiccò ad Emanuela e allora questa disse: Oh, una cattiva bambina, cotesta Simonetta, certo sarà messa in castigo. Ma già, Stefania non rispondeva più. A occhi chiusi, annuiva appena, le guance arrossate dalla gran febbre. Riprese poco dopo: Mamma, non te ne vai, vero? No, no, sai, ho tutto il corpo coperto di puntine rosse come fragolette. Biascicò le ultime parole e di nuovo tacque. Intanto la suora diceva a Emanuela che il dottore sarebbe venuto verso il tocco. Al tocco si va a tavola, aveva detto la madre di Andrea. Bisognava essere puntuali, comprare i fiori. La suora insisteva. Potrà parlare col dottore lei stessa. Naturalmente, se in questi giorni la vuole trascorrere la notte presso la bambina, il regolamento non lo vieta, faremo mettere un letto. Perplessa, Emanuela chiese. Ah, il regolamento non lo vieta? E non aggiunse altro. Adesso Stefania aveva ricominciato a vaneggiare con voce lamentosa, una vocetta che non era più la sua, così asciutta e autoritaria, una voce simile a quella di chi parla in trance. Non sono stata io, Simonetta. Il panino è dietro la finestra. Lasciami stare le trecce, Simonetta. E scuoteva la testa come per liberarsi. Poi aprì gli occhi, come spaventata, guardò intorno e chiese: È venuto papà? Smarrita, Emanuela non rispose. L'infermiera le stava di faccia, la suora dietro le spalle, forse soltanto la suora conosceva le generalità della bambina. Stefania Andori, di padre ignoto, e di Emanuela Andori. Una cosa orribile. Stefania chiamava adesso quel padre ignoto. Che risponderle? Emanuela taceva, sperando che la bambina si divagasse in altri pensieri, ma Stefania, dopo due o tre frasi sconclusionate, ripeté chiaramente: È venuto papà! Cercando di non sentire alle spalle la presenza della suora, Emanuela le sussurrò: Papà lavora. Sempre quegli aeroplani? Sempre. Digli che già si è rotto quello che mi ha mandato. E poi era un giocattolo, non un aeroplano vero. La fronte della bambina ardeva, tanta febbre e neppure una goccia di sudore. Come scotta! Esclamò Emanuela rivolta all'infermiera. E quella rispose per rassicurarla: Sono le 12:15, al tocco verrà il dottore. Passò un quarto d'ora come un lampo. La bambina, a occhi chiusi, sembrava dormire. Certe volte con le labbra faceva delle bollicine di saliva, quasi per gioco. Emanuela attese ancora un minuto, come se potesse valere qualcosa, poi fermamente, cercando attorno con lo sguardo un po' di compassione, si spinse sull'orlo della seggiola dicendo: Io devo andare via. Era detto. La suora guardò l'infermiera e poi disse in tono di meraviglia: Ma il dottore verrà tra mezz'ora. Non posso, proprio non posso, devo essere al centro all'una, assolutamente. Beh, se volesse telefonare, forse, fece la suora accennando a precederla. Telefonare? No, no, non potrei. È un appuntamento in strada. La suora tacque e guardò in terra. Poi alzò di nuovo gli occhi e chiese: E per questa notte? Stanotte? Ah, era un supplizio, un supplizio. Emanuela aveva voglia di mettersi a piangere, implorando che non la tormentassero così. Come poteva rimanere? E d'altra parte era possibile che abbandonasse Stefani in quello stato? Che poteva fare? Al collegio avrebbe potuto dire di un viaggio, ma ad Andrea? Cosa dire ad Andrea? Avrebbe detto t'accompagno alla stazione. L'avrebbe messo sul treno e poi un viaggio improvviso. Necessitava una ragione importante, papà malato. Ma egli avrebbe telefonato a Firenze per sapere notizie. Ah, come poteva? E intanto gli occhi della suora attendevano una tortura. Stanotte, ella ripeté, poi ingoiando un nodo amaro disse: Non posso stare qui la notte. Vi fu un silenzio, quindi la suora cortesemente fece come crede. E l'infermiera aggiunse conciliante: Ci sono io. Verrò più tardi, tornerò più tardi, promise Manuela. Ma ormai la suora stava sulla porta per accompagnarla e non l'ascoltava più. Ella s'alzò. Al rumore che fece la sedia, la bambina aprì gli occhi in un sussulto. Dove vai, mamma? Fu l'infermiera che rispose. Vai in direzione per telefonare. Non mi lasci, vero, mamma? Emanuela si chinò sulla fronte ardente, la baciò. Un buon odore veniva dai capelli biondi e fini. Te ne vai via, mamma? No, Steffi, no, scendo a telefonare, non hai inteso? E intanto si sentiva vergognosa di dover ricorrere a quella bugia, come se dovesse confessare a se stessa e agli altri che agiva male andandosene così. Per un capriccio improvviso la figlia le disse: Levati il cappello, levati il cappello. Ed ella, sorridendo, se lo tolse e pensò: È la prima volta che Stefania mi vede senza cappello. E questo pensiero la commosse. Intanto la bimba, rasserenata, aveva abbassato di nuovo le palpebre. Emanuela uscì dalla camera in punta di piedi, attraversò il collegio dietro lo sgonnellio frusciante della suora, mise il cappello e uscì. Al tassì che l'attendeva dette l'indirizzo e disse: Presto, presto! E partirono. Fuori, la malattia di Stefania non esisteva più. Come non esisteva più Stefania? Emanuele aveva il cuore umido come per un incubo dissipato. Il tassì correva, la sbatteva, la faceva inclinare alle voltate, lei godeva della gioia di essere libera, ne sorrideva internamente. Anche la fronte le si stirava. Tutto finisce sempre bene, pensava. Adesso tutto è regolare. Arrivava in orario, solo doveva rinunciare ai fiori. Aveva temuto che la suora non la lasciasse uscire. Che momento terribile. Ma era passato, era finito. Mancavano 2 minuti al tocco quando ella, dopo essersi assestata la giacca e i guanti, suonò alla porta di Andrea. Era salita, leggera, guardando di qua e di là le scale dove Andrea saliva sempre. Quante volte la mano di lui aveva richiuso il cancelletto dell'ascensore. S'arrestò a una porta scura dagli ottoni lucidi. Attese sullo zerbino, pensò per un attimo, avrà pianto Stefania quando si è accorta che sono andata via. Ebbe un rimorso, ma come per una colpa commessa in sogno, un rimorso breve, perché la porta si aprì, la cameriera sorrise e lei sorrise ed entrò. La colazione fu piacevolissima. Nella sala da pranzo, un po' antiquata, si respirava un'aria familiare. Emanuela dapprima era impacciata e questa sua timidità piacque. Aveva già 25 anni, eppure serbava una semplicità infantile che conquistava. Prendendo il caffè, nel muoverlo, macchiò la tovaglia. Rossa in viso, fece: Oh, mi dispiace! E guardò attorno smarrita. La madre di Andrea sorrise: Ma non è nulla, proprio nulla, figlia mia. E Andrea rise addirittura: Perché l'hai fatto notare? Noi avevamo fatto finta di non vedere. È in questo l'educazione, nel fingere di non avvedersi. È nel volgersi abilmente dalla parte opposta quando il vicino sta per avere il singhiozzo o quando si capisce che ha un ossicino in bocca e vorrebbe metterlo nel piatto. Ci si volge come per caso, si osserva qualcosa con attenzione e quando si torna a guardare il vicino, il singhiozzo è passato, l'ossicino sta sull'orlo del piatto. Quello è convinto di essere stato educatissimo, mentre non lo sarebbe stato più se tu te ne fossi accorto. Pensa che disagio in albergo, sotto l'occhio ironico del cameriere, mangiando il pollo, far schizzare una patatina sulla tovaglia. Una tragedia. S'arrossisce fino alla punta dei capelli. Invece a casa tua, prendi la patatina con 2 dita e te la metti in bocca. Un umorista diceva che veramente educato è colui che prende le zollette di zucchero con le molle anche quando è solo. Ridevano, tranquillamente. Era proprio una bella giornata, una bella domenica. Un raggio di sole scialbo entrava dai vetri della sala e andava a battere sui mobili vecchi, lustri e solenni. Tra i quattro spirava una confidenza familiare e commovente di festa patriarcale. Le cose erano antiche, alcune erano fuori moda, ma non si sarebbe trovato come sostituirle. Se un solo oggetto di gusto moderno fosse stato posto tra quelli, allora la casa sarebbe divenuta decisamente brutta, però l'oggetto non c'era. Si levarono dalla tavola per passare nel salottino contiguo. Emanuele ed Andrea si sentivano compiutamente felici, appagati, espansi. Prima di sedersi, Andrea disse: "Vieni, Nuela, voglio mostrarti la mia camera." Era in fondo alla casa, una delle ultime porte bianche e lucide del corridoio. La ragazza, appena entrata, esclamò, volgendo gli occhi intorno: "Oh, ma è carino, molto carino qui." Intanto pensava che la camera era piuttosto brutta, d'aspetto vecchiotto. "È semplice," disse Andrea. "Qui studio. Però ti prego, non guardare il disordine del tavolo. Eppure ho fatto un lavorone per sistemare un po', già che venivi, ma senza riuscire, vedi? Questi sono i miei libri." Ed ella li toccò con una mano che voleva essere rispettosa. "Vedi la tua fotografia? Ma è vecchia, ne vorrei un'altra ora, una grande." Sì, era vecchia, molto vecchia, fatta da Stefano 6 anni fa al giardino di Boboli. Non aveva avuto scrupoli a mescolare così Andrea a Stefano. Nella sua vita ormai tutto era commisto, il passato al presente, la bugia alla verità. Andrea l'aveva presa per le spalle e parlava: "Tanto desiderio avevo di vederti qui, tra le cose mie, le vecchie cose alle quali sono abituato." Restò zitto un momento, quindi le domandò affettuosamente: "Ti ricordi di quel ristorante dove andammo il primo giorno? Ti disegnai la pianta della mia camera sul rovescio di un pacchetto di sigarette. Chissà, forse immaginavo che un giorno vi saresti entrata." "Non era intenzionale," seguitava. "È il destino. Tu giri, vedi tante ragazze, ridi se ti si parla di matrimonio, gli amici si sposano e tu ridi e poi un giorno, non si sa come, ne incontri una. E prima pensi soltanto è carina. E poi, com'è stato, Nuela?" "Beh, tu mi scrivesti quel biglietto." "Già, e tu non venisti. Mi ero infreddolito aspettandoti. C'erano quei bambini che cantavano. Perché non venisti?" "Mi pareva..." "Capisco." Rimasero assorti ed improvviso egli la strinse a sé, la baciò sulla bocca, senza allentare l'abbraccio. La sua mano dalla vita saliva a cercarle il seno rotondo sotto il vestito leggero. Il suo sguardo spiava gli occhi che la ragazza aveva chiusi, ma ad un tratto scossa come se a quel contatto egli dovesse subitamente intuire il vero essere fisico di lei. Con moto brusco, Emanuela gli staccò la mano dal seno, si divincolò, si allontanò. Poi, temendo che tanta improvvisa durezza dovesse essere intesa male, con un sorriso infantile si riaccostò a lui e gli poggiò la testa contro il petto. Egli le disse dolcemente: "Perdonami", e appariva tuttavia assai turbato di lei. "Torniamo di là." S'avviarono, ma appena nel corridoio egli le prese un braccio e le chiese a bassa voce: "Oh, guarda, non ho mica rossetto sulle labbra!" E al cenno negativo di lei, sicuro, riprese a camminare. I vecchi, vedendoli entrare, sorrisero. L'ansia per Stefania la riafferrò alla sera in collegio. Durante la giornata, ogni volta che il pensiero della bambina sorgeva in lei, lo scacciava duramente. Ma in cappella, alla preghiera della sera, era soffocata dall'ansia. "È terribile," pensava, "essere chiusi in questa prigione." E prima di salire in camera, non potendo resistere, telefonò: "Pronto?" Fece e si guardò attorno. "Vorrei sapere notizie della bambina Andori." "È la mamma?" "Sì," disse questo sì in un soffio come per esserlo un po' meno, e poi attese un tempo infinito. Era sola, ma temeva che qualcuno entrasse, e infine venne al microfono la suora e parlò, senza riguardi: molto grave, Stefania. Il dottore non ha nascosto le apprensioni, la febbre è altissima. La bambina, delirando, chiamava lei." "Ah, ho capito, va bene. Buonasera." Ella disse questo con gelida voce sommessa e riattaccò il ricevitore con fare misterioso. Uscì fuori nel vestibolo quasi buio, deserto. Il portone era già sprangato. Salì lentamente, un peso enorme nei ginocchi, esausta. Suor Prudenzina vigilava che tutte le ragazze rientrassero nelle loro stanze, mansuete come pecore. Non si erano mai amate, Suor Prudenzina e lei. La suora aveva subito intuito nella ragazza qualcosa che sfuggiva al suo controllo. Tra poco, al grido «Luce!», il cancello dell'atrio avrebbe cigolato chiudendosi. Le ragazze sarebbero partite verso un mondo di tenebra e di sonno. Se Emanuela avesse gridato «Mia figlia sta morendo!», non l'avrebbero lasciata uscire. Molto grave Stefania, la suora aveva detto. Emanuela la rivedeva delirante nel letto, tutta rossa dalla febbre, riudiva con crescente insistenza quella nuova voce mite della figliuola che chiedeva: Non te ne vai, vero mamma? L'aveva tradita, abbandonandola sorridendo, il cappello in mano. Falsa, falsa con lei, come con tutti, tutta una bugia la sua vita. Un'aerea cattedrale. Costruita sull'inganno, una cattedrale di vetro, e presto tutto sarebbe crollato con gran fragore. I vari personaggi che erano in lei di colpo si sarebbero trovati di faccia, smascherandosi l'una con l'altra. Avrebbe perduto tutto, Andrea, le amiche, anche la figlia. Molto grave, Stefania. Può morire stanotte, e mamma non c'è. Come una demente, ripeteva tra sé infinite volte questa frase e mormorava: Mamma non c'è, mamma tua non c'è, non c'è. Si torceva le mani, andava di qua, di là, nella stanza, smaniando. Che posso fare? Che posso fare? Questa domanda le saliva tante volte alle labbra, una domanda angosciosa, come un singhiozzo che le limava l'animo. Con la malattia della bambina tutto sarebbe stato scoperto. Adesso era inevitabile. Ah! Eruppe ad alta voce. Stefi, quanto male mi hai fatto! Il male adesso, lassù al collegio, delirava. Stava per morire. E se fosse morta? Bisbigliò questa domanda e quindi terrorizzata rimase in ascolto. Forse dopo questa domanda la camera crollerebbe su di lei, schiacciandola. Le pareva che la porta si sarebbe dovuta aprire per lasciare entrare un dio severo, tutto vestito di bianco. Timorosa, lenta, volgeva la testa attorno. Nulla. Nulla accadeva. All'aria intorno, con voce confidente, chiese ancora: E se morisse? Nulla si scosse, e intanto il suo pensiero andava rispondendo alla sua domanda. Se morisse, niente più discorso con Andrea. Avrebbe seguito il funerale sola con l'ombra di quel padre ignoto che fabbricava aeroplani. Sola, un lungo velo nero in faccia. Ecco, si proteggeva anche da quell'evenienza. Un male acuto la stringeva nel ventre, come se le sue viscere si rifiutassero. Esse che avevano portato la bambina, e però insisteva nel pensare se morisse niente più discorso con Andrea. Bastava, sì, bastava un po' di commedia la sera delle nozze, egli non avrebbe sospettato di niente. Era un ragazzo primitivo, Andrea, chiaro e semplice. Nulla risultava sulle sue carte. Un matrimonio regolare, un lungo strascico, un odoroso mazzo di gardenie. Odoravano così acutamente da stordirla e l'organo suonava così forte che la sua testa era piena. Tutto sistemato, tutto regolare. Se Stefania moriva era come se non fosse stata mai viva. Per chi era viva quella bambina? Per nessuno, e quindi non esisteva. La morte di Stefania l'avrebbe riportata indietro di tanti anni, leggera, leggera, come in punta di piedi, fino al giorno che Stefano l'aveva incontrata sul Lungarno. Tutto era dipeso da un attimo. Quella tragedia bastava che l'avesse svoltato al Ponte Vecchio invece di proseguire. Ecco, se Stefania moriva, sarebbe stato come se quel giorno Emanuela avesse svoltato sul Ponte Vecchio. Una ragazza sale sul ponte, un aviatore passa per il Lungarno un attimo e non si incontreranno mai più. Muore, sì, certo, muore e mi libera. S'ergeva sulla punta dei piedi come pronta per volare. Quante bambine muoiono a 5 anni? Sua sorella era morta a 6 di scarlattina. Scarlattina. Scarlattina. E un'onda di pietà l'invase per quella vocina che aveva detto tutte puntine rosse come fragolette. E pianse. Lacrime incerte s'affacciavano agli occhi, poi come pazze si buttavano a capofitto e ruzzolavano per le guance. Soffriva come se qualcosa la costringesse a portare sua figlia in sacrificio. È per il suo bene, è per il suo bene, andava convincendosi. Ovunque avrebbe dovuto esibire quella vergogna originale di padre ignoto, di padre ignoto. Forse un giorno sarebbe andata a trovarla e amaramente le avrebbe rimproverato: mamma, perché non mi hai uccisa da bambina? Stava in piedi nel mezzo della stanza, inchiodata, e fissava la porta a occhi sbarrati. Qualcuno adesso sarebbe entrato a darle la notizia, ma tutto era silenzio nella casa, i lumi erano spenti, Emanuela si sentiva ardere una febbre che le pareva di eroismo e la consumava dentro. È così ormai, è così, tutto s'accomoda, pensava. A 5 anni non si capisce la vita, non si soffre di morire. E tremava e si torceva le mani finché, esausta, s'abbandonò sul letto, tesa in ascolto, aspettando che in lei si consolidasse questa certezza. Stefania morirà. S'addormentò così, vestita, senza avvedersene. All'alba, la luce livida che veniva dalla finestra la svegliò, con brividi di freddo. Stefania! Ella subito pensò e provò la spaventosa sicurezza che a quest'ora la piccola non ci fosse più, che fosse morta. Un delitto, un atroce delitto. Sono io che l'ho uccisa! E cominciò a darsi pugni sulle tempie, mormorando: assassina, assassina! E infine la campanella delle suore dette i primi 3 rintocchi. Di buon'ora Emanuela uscì dal collegio, corse lassù e, appena vide la suora dell'infermeria, le disse piangendo: non potevo stanotte, sorella, proprio non potevo, lei non sa. E appariva così accorata che quella la confortò battendole una mano sulla spalla. Passò tutto il giorno al letto della figlia. Neppure un attimo lasciò la mano della bambina. Ogni poco la chiamava timidamente: Stefi, Stefi! Ed era come se volesse dirle: perdonami. Non si mosse neppure per mangiare. Scuoteva la testa quando l'infermiera le diceva se volesse riposarsi. Sto qui, rispondeva. E infine alle 4 Stefani aprì gli occhi e chiese: mamma, mamma, ho fame. L'aveva sentita, aveva capito che era stata lì sempre, senza muoversi. Alle 6 la bambina cominciò a sudare, perle sulla fronte, sulle labbra, e la febbre calava. Stefania dormiva quando alle 7 Emanuela, senza parlare, se ne andò.